Il gastronauta di Davide Paolini. Chissà se nelle case si comincia a sentire quel sottile profumo di brodo, magari di capone o di gallina. Mi raccomando, almeno in questo periodo non usate il dado. Ma chissà se si sente anche quel profumo sicuramente di pasta sfoglia, di mattarello chi va, oppure di ragù. È ancora così l'Italia dal nord al sud, oppure è cambiata e oggi invece piatti pronti o tutti al ristorante? Bene, lo andremo a scoprire. Buongiorno a tutti i gastronauti, facendo un giro dell'Italia. Ma io voglio sapere anche il parere dei nostri radioascoltatori. Per questo numero verde è 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ebbene, cominciamo questo viaggio dalla città per eccellenza detta Bologna la grassa, quindi sentiamo un secondo, ma anche la dotta, sentiamo subito un ristoratore bolognese, sentiamo Paolo Carati. Buongiorno Carati. Buongiorno Davide, buongiorno. Ma si sente già il profumo dei tortellini bolognesi, Carati? È imprescindibile a questo punto, imprescindibile. Ci deve essere. Quindi la tradizione rimane? La tradizione rimane assolutamente. Noi fino a poco tempo fa, finché erano tutti in pista, ancora si ritrovavano mio padre con le sue sorelle e fratelli per fare i tortellini. Un paio di volte alla settimana venivano qui, era un'occasione per togliersi dal paesino vicino e venire in città e aiutare a chiudere i tortellini. Senta Carati, ma cosa ci va dentro ai tortellini? Perché qui ci sono scuole di pensiero molto diverse, però Bologna ha una ricetta che è imprescindibile, se non erro. Allora, dal mio punto di vista, se è vero che l'Italia è la patria dei dialetti, è anche la patria delle ricette. La mia famiglia viene da Castel San Pietro, quindi un po' la metà strada fra Bologna, questa zona intorno, insomma. Il ripieno qui va crudo, ci va lombo di maiale, ci va un po' di prosciutto crudo, ci va la mortadella ovviamente, ci va il parmigiano reggiano, sale, pepe, quando c'è bisogno un uovo, solo rosso, tutto l'uovo, fondamentale la noce moscata, e poi a livello di famiglia un pochino, un petto di pollo, galletto, in questo momento ci può andare a finire un po' di petto di cappone, la faraona, perché il brodo variabili. Perché il brodo sarà di cappone. Un brodo misto con anche dall'autunno in avanti, dall'autunno inoltrato in avanti, con il cappone. Guardi, abbiamo subito un radioascoltatore da Bologna. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Allora, ci dica. No, io vi volevo dare un consiglio grandissimo per quanto riguarda la Cappasanta. Fra l'altro è un'esperienza che ho avuto, perché ho gestito nel tempo passato alcuni ristoranti. Poi ho avuto un padre che ha navigato sulle navi passeggeri di prima classe. Ecco, la Cappasanta voi dovete sapere che la vendono oggi come oggi il mollusco e la valva separati, però il problema è come farla. Allora io vi consiglio questo, di avere una fascina di legna di vite, questa è la cosa fondamentale, poi prendere la Cappasanta, pulirla se è fresca, naturalmente se non ha la valva o il mollusco separati, dopodiché metterla in freezer per un giorno. Scusi Antonio, ma a Natale la Cappasanta? Eccezionale perché ha una fragranza grandissima, e poi trovarsi in intimità con la famiglia, oppure anche con la donna, con la persona vicina, è di una bene. Grazie Antonio per la promozione della Cappasanta, la ringrazio. Ma volevo dire che mi è già arrivato parecchi sms e ce n'è uno molto strano, mi dice: perché non parlate della pasta cinese? Non vedo perché dobbiamo parlare della pasta cinese, caro radioascoltatore, anche perché oggi abbiamo detto che parliamo di questo filo conduttore dell'Italia dal nord al sud. Magari un'altra volta parleremo anche di piatti che arrivano da fuori. Ma sentiamo Ivana da Bergamo, buongiorno, un'altra radioascoltatrice. Sì, buongiorno, io chiamo da Bergamo, però sono di origine mantovana e in questo momento sto facendo gli gnocchi di zucca. Ah, ecco, vedo che mi arrivano moltissime sms, un altro dalla Meglia di Mestre mi dice che sta preparando la pasta per i cesti, e ancora un altro che sta preparando le tagliatelle. Bene, insomma, siete già in anticipo sul Natale. Mi dica Ivana, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo solo dire, siccome appunto ha detto che così non ci sono più le nonne, e niente, io sto facendo questi gnocchi. Lei è nonna? Quasi. Beh, perché devo dire una cosa, ho detto mancano le nonne, è vero, perché forse ci mancherà una generazione in cucina, perché c'è una generazione oggi di mamme dai piatti pronti, per quello che è la mia grande preoccupazione, ma speriamo che ci sia un recupero delle nuove generazioni. Un'ultima battuta con Paolo Carati. Senta Carati, ma è ancora molta la richiesta dei tortellini in brodo dai vostri clienti? Tortellini sono richiestissimi, quindi va. Indipendentemente da tutto, i primi fiocchi di neve poi ovviamente scatenano una domanda sopra la media. Bene, mi raccomando, non rovinateli facendoli asciutti, continuate a farli in brodo come è tradizione, con due dita di una spolverata di parmigiano sopra. Bene, sentiamo Giorgio da Pesaro, buongiorno Giorgio. Buongiorno signor Paolini, io volevo solo testimoniare che io vivo a Pesaro e da noi c'è la tradizione, la mia famiglia, da mie cognate, di fare sempre le cose fatte in casa, quindi oltre ai cappelletti o i tortellini, da noi si fa anche una pasta che si chiama minestra reale, è fatta con l'uovo, molto difficile da descrivere perché non sono all'altezza, non conosco le proprietà, però posso garantire che è meravigliosa, col brodo di capone, fantastico. Inoltre, lavorando in Romagna, diciamo da Castel Bolognese verso Pesaro, la tradizione qui è grandissima, perché ogni ristorante che si può chiamare, può vantarsi di chiamare tale, ha le sue tradizioni e posso garantire che bene, ci sono delle cose bellissime. Grazie Giorgio da Pesaro, io ringrazio Paolo Carati e leggo un bellissimo SMS. Mia nonna ha iniziato stamattina a schiavizzare i nipotini per chiudere i tortellini bolognesi. Incredibile, incredibile, ma quindi le nonne esistono ancora e sono molto ma molto felice. Bene, ora andiamo a Napoli, andiamo da Antonio Tubelli. Antonio Tubelli ha appena pubblicato un libro bellissimo sulla cucina napoletana, non solo, ma ha un locale che si chiama Timpani e Tempura e con lui voglio parlare proprio del timpano o timballo di maccheroni. Buongiorno Antonio. Come va? Bene, tu tutto bene? Bene, anche nei momenti difficili della nostra città abbiamo gli entusiasmi natalizi di sempre. Bene, importante queste. Senti, ma il timballo di maccheroni si fa ancora? Sì, diciamo che è andato un po' in disuso. Però sotto la spinta dei coraggiosi come me sta riprendendo abbastanza quota, perché è un piatto, diciamo, dai sapori inconfondibili ed unici. Ma ci vuole molto a prepararlo, vero? Ma ci vuole più che molto, ci vuole dedizione, perché poi è un piatto che per esempio nelle festività, compresa questa, in modo particolare quella del 25 o del 26, ti consente di prepararlo e ritornare a questa usanza antica degli anni, fino a che è stato in uso sino agli inizi degli anni 70, di andare a fare la passeggiata, ritornare e mangiarlo, perché come sai il timballo deve riposare, deve essere tiepido, poi si accompagna con una salsa abbastanza bollente, però il timballo in sé deve essere tiepido, quindi ha questa possibilità di essere preparato, poi messo al forno, conservato, fare la passeggiata, ritornare e mangiare con maggiore efficacia, quindi dà la possibilità di andare tutta la famiglia fuori. Beh, solo un napoletano mi può dire la passeggiata, stupendo. Rimani con noi Antonio, sentiamo Carla sì, da Modena. Va bene. Carla da Modena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo fare una precisazione riguardo ai tortellini. I tortellini non sono né bolognesi né modenesi, sono di Castelfranco Emilia. È chiaro il discorso? Bene, questo lo so. No, si vantano tanto i bolognesi. Bene. Dei tortellini bolognesi, ma non sono bolognesi. Bene, grazie signora di questa provocazione. Spero che ci sia qualche bolognese che risponderà. Spero proprio. 800 24 00 24. Sentiamo anche Roberto da Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno Paolini, lei sta facendo venire la colina in bocca a tutta l'Italia, mannaggia. Beh, speriamo, poveretti, sono quelli che sono ancora all'addiaccio già da diverse ore, almeno diamogli un minuto così che sognano un po' cosa mangeranno il giorno di Natale. Consoliamo con la fantasia culinaria. Certo. Dunque, io premetto che sono un appassionato cuciniere da tanti anni e direi, quello che volevo dire è che effettivamente si sta un po' perdendo la tradizione dei cenoni della vigilia col pesce, con quei belli antipasti di affumicato, con il filo d'olio, con le marinate, con l'oratina fatta sul letto di patate, olive e pinoli, al forno, e poi il Natale con gli arrosti, le paste fresche. Purtroppo devo dirle, io quest'anno ho prenotato il Natale al ristorante. Dico purtroppo perché mi piace molto la tradizione, la cucina fatta in casa e proprio gustare il cibo. Però devo dire che ci sono ristoratori che fanno delle cose fantastiche. Bene, bene, grazie di questa sua testimonianza, che sì, sono d'accordo anche lei, cioè passarlo al ristorante è sicuramente un'altra cosa che passarlo a casa. Ma andiamo in un ristorante in provincia di Cuneo, un ristorante storico, andiamo a Santo Stefano Belbo da Guido del Relais San Maurizio, andiamo dallo chef Luca Zecchin. Buongiorno Luca. Ciao Paolo. Buongiorno Luca, volevo chiederti questo: gli agnolotti piemontesi o plin, come si dice, fanno ancora forti, vengono richiesti e sono ancora natalizi oppure diciamo stanno scomparendo? No, non stanno scomparendo per niente, sono sempre più presenti, è una tradizione che continua, devo dire, su 10 piatti, su 10 comande c'è sempre l'agnolotto, difficilmente non c'è uno che non mangia l'agnolotto. Senti, qual è il segreto dell'agnolotto piemontese? Allora, innanzitutto la particolarità del ripieno, che è fatto con tre carni, il maiale, il vitello e il coniglio, tutte arrostite separatamente e con aggiunta poi di scarola e spinaci, poi ci sono le varie tradizioni di chi mette riso, io ti racconto quella che facciamo noi. Aggiungiamo poi le uova e poi pasta molto sottile per far sentire il ripieno, una cosa molto importante, non far sentire solo la pasta. Bene, questo è il grande segreto. Il brodo? Brodo di carne con un pezzo di bollito che poi possiamo anche mettere nel ripieno, tipo una scaramella va benissimo. E vanno benissimo anche da cuocere nel brodo e tirati su asciutti, e qua è una tradizione che si usa metterli nel tovagliolo di lino e mangiarli con le mani, il famoso plin al fumo. Esatto. Bene, grazie a Luca Zecchin. Ora vedo una telefonata da Verona, sicuramente sarà qualcuno da Valeggio che protesterà sul discorso dei tortellini. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Caspita, mi avete beccato in flagrante proprio questo argomento. Immaginavo, guardi, me la stavo aspettando questa telefonata. Eccomi, prego. Infatti. No, niente, volevo solo dire che con tutto il rispetto per l'Emilia Romagna, secondo me i tortellini di Valeggio sono un'altra cosa, praticamente. Non hanno paragone. E poi, secondo me, oltre alla tradizione dei tortellini, si sta un po' perdendo la tradizione anche del brodo, dove mettere dentro i tortellini. È vero, verissimo questo, perché ci vuole tempo, caro Francesco, ci vuole tempo, non c'è più tempo in questo mondo, quindi il brodo ci vogliono un paio d'ore, bisogna stare attenti, bisogna andare a fare la spesa, prendere i pezzi giusti, i tagli giusti e poi cuocerli in maniera diversa. Il tempo ormai è un qualcosa che si è proprio perduto. Grazie a Francesco. Sentiamo, torniamo un momento da Antonio Tubelli. Antonio, volevo chiederti questo, oltre il timballo di maccheroni, c'è un altro piatto di pasta del periodo natalizio? Ma sì, c'è il piatto, diciamo, della vigilia del Natale, perché tu sai che noi il momento importante del Natale nostro è la cena della vigilia, anche se diciamo è una cena di magro, ma là ci sono gli spaghetti che la fanno alla grande e possono essere di volta in volta. Se partiamo dalle origini, erano dei semplici spaghetti aglio ed olio, poi viene aggiunta l'acciuga, poi vengono aggiunti i titoli di baccalà in qualche preparazione, e poi c'è quel piatto fondamentale di magro della nostra tradizione, che è lo scammaro, che era uno dei piatti forti della vicina del Natale, erano le linguine o trenette allo scammaro, di questo pasto. Solo con un po' di benessere negli anni successivi poi è stato soppiantato dagli spaghetti ai frutti di mare, però diciamo l'origine era questa qui, quindi è un piatto importante delle festività natalizie, lo spaghetto della vigilia. Grazie Antonio Tubelli, autore della cucina napoletana, lo ricordo. Sentiamo Elvira da Palermo. Buongiorno Elvira. Buongiorno Paolini, che piacere sentirla. Senta, qui non si trova la zucca per fare tortelli, io sono una friulana qua giù da tanti anni, e perché non si trova? Qui c'è una zucca che non ha niente a che fare con quella di lassù, dunque non posso fare tortelli, non posso fare la mesta, non posso fare i pestarei, come si dice in Veneto, e allora che si fa? Non ho più parenti e non posso far arrivare questa zucca. Bene, allora facciamo un appello, se c'è qualche palermitano che sa un negozio dove comprare la zucca, che, ah, che, e vediamo se appunto possiamo aiutare la signora Elvira per Natale. Bene, le faremo sapere. Grazie, grazie Elvira. Ora andiamo a Mantova, andiamo a parlare di agnolini mantovani. Mi raccomando la G, perché non vorrei che a questo punto da Parma qualcuno si sollevasse allo scandalo. Agnolini con la G, gli agnolini mantovani. Buongiorno a Gaetano Martini del Cigno. Buongiorno, dottore, buongiorno. Allora, gli agnolini si fanno ancora a Mantova? L'agnolino si fa e va sempre molto, una volta era solo per le feste, adesso invece si trova quasi tutti i giorni, ma è molto importante per le famiglie mantovane. La caratteristica unica dell'agnolino rispetto agli altri è che noi usiamo un pesto, lo cuociamo, viene leggermente brasato ed è un pesto molto di carattere, cioè piuttosto saporito. Che viene, cioè deve essere importante il brodo che deve dare agli agnoli e gli agnoli che deve dare al brodo. E sono praticamente esclusivamente in brodo l'agnolino mantovano. Si possono fare asciutti, ma nascono proprio in brodo. Bene, poi vedremo una versione molto particolare degli agnoli. Grazie a Gaetano Martini del Cigno dei Martini di Mantova. Presto e buon Natale. Bene, grazie bene. Allora, ora andiamo. Vedo da Cremona, vedo una telefonata da Cremona, ma vedo anche molti sms da Cremona. Tutti invocano i tortelli cremaschi. Buongiorno Antonio, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno Antonio del Biste di Trescorre, non potevano mancare i tortelli cremaschi, che sono essenzialmente un primo di magro, perché non compare tra ingredienti, lei lo sa che l'ingrediente principale sono questi biscotti amaretti a base di armelline e pertanto sono molto natalizi, anche perché nel ripieno c'è un'intera, ci sono i profumi di tutte le vecchie drogherie. Senta Antonio, ma ci va ancora diciamo dei pezzi di frutta candita tipo mostarda? Sì, sì, dopo gli amaretti ci sono uvetta, il cedro, poi ci sono dei mostaccini e per dare queste fragranze, tante spezie che variano a seconda di famiglia o di paese e poi ci sono questi ingredienti particolari tipo la mentina, quelle bianche che danno questo profumo di menta che è molto gradito nella nostra zona. Bene, ora andiamo al sud, andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia perché in Sicilia c'è un piatto straordinario che è il timballo di riso, pasticcio di Natale della città di Noto. Bene, sentiamo che ce ne parla Fabrizio Carrera, giornalista di Cronache di Gusto anche, un sito molto interessante. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Allora, si fa ancora il pasticcio di Natale? Sì, si fa ancora e devo dire che è una tradizione che resiste dalle parti sicilio-orientale ed è una delle poche cose con cui si utilizza il riso, insomma, perché poi il riso non fa parte molto della tradizione culinaria siciliana. Diciamo che l'uso più comune che se ne fa è sia nel timballo ma anche con le famose arancine. Che, come tu sai, c'è una disputa anche letterale, perché nella Sicilia occidentale si usa proprio l'arancina, nella Sicilia orientale si usa arancino, in quella occidentale invece arancina. Diciamo che di questo pasticcio c'è così una pagina splendida sul Gattopardo, tra l'altro. Esattamente, è una delle cose che Tomasi Lampedusa innalza, come dire, come simbolo della Sicilia dell'opulenza, perché d'altra parte il timballo discende sempre, come il discorso dicevo prima, alle arancine, perché viene arricchito da tantissime cose, dalla carne, dai piselli, da tutto quello che naturalmente una tavola poteva offrire e si faceva questo piatto molto ricco che oggi definiremo piatto unico. Allora diventava qualche anno fa, un po' di tempo fa, diventava anche un po' il simbolo delle feste. Senti, si mangia anche al ristorante? Si trova in questo periodo nei ristoranti oppure è solamente un piatto casalingo? No, devo dirti che è un piatto casalingo, viene visto appunto come un fatto familiare, questo tipo di cucina non ha preso piede ed è un peccato perché secondo me, come dire, nei ristoranti, visto che poi la ristorazione del sud italiana in genere discende un po' dalle ricette di casa, bisognerebbe anche impostare qualche antica ricetta. Bene, grazie Fabrizio Carrera, ti ringrazio e a presto e un saluto alla Sicilia. Bene, continuiamo questo viaggio e sentiamo Mauro da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. Dunque, mi sono meravigliato che non avete mai parlato del baccalà. Beh, stiamo parlando di pasta, Mauro. Stiamo parlando di pasta e prima il nostro amico Tubelli ha parlato di baccalà nella pasta del periodo natalizio, anzi della vigilia. Quindi ne abbiamo parlato. Insomma, di, di striscio, diciamo così, insomma, sì. Il baccalà è un cibo, è un merluzzo, cibo sano, sanissimo, sì. Io sono ghiotto. Bene. Perché questa mia tendenza si ricollega alla mia infanzia, quando mia madre lo friggeva e caldo era salatissimo, immangiabile, la mattina dopo era un'leccornia, mi raccomando, si dice leccornia, non leccornia. Bene, grazie a Mauro di questo insegnamento, grazie, grazie tante. Bene, allora ora andiamo a Isola Dovarese, in provincia di Cremona, perché vogliamo ascoltare da un personaggio, da un trattore importante che è Fausto Malinverno della Crepa, una trattoria cult. Cosa sono i marubini, Fausto? I marubini è una varietà di ravioli, come è citato, adesso per parlare di paternità, noi abbiamo un documento cremonese del 1243 che parla per la prima volta di ravioli, senza parlare dei libri di cucina ottocenteschi come Re di Cuochi, che specifica precisamente marubini alla cremonese, intendendo la forma del marron o mezzo o mezza castagna, ecco, quella era la definizione precisa, il perché di marubini, almeno questa è quella accettata. Bene, Malinverno, ma a Natale, in questo periodo, voi le fate anche in brodo? Sì, sicuramente in brodo, la sua morte o la sua vita è in brodo. Devo dire che noi ce li chiedono anche d'estate, però è il piatto indispensabile per tutte le feste, ma per Natale non c'è una casa, almeno in provincia, a Cremona, io credo che non faccia anche in casa i marubini. Bene. Anche perché devo aggiungere che io trovo qua nella mia trattoria che sono graditissimi i bambini. Questo mi fa molto piacere, perché è una delle cose che dico sempre ai genitori, basta fargli assaggiare le cose ai bambini, che non ne rifiutano assolutamente, anzi, tante volte per risolvere un piccolo problema i marubini risolvono tutto. Bene, la ringrazio. Sentiamo Gianmaria da Genova, un radioascoltatore che ho fatto attendere a lungo. Buongiorno Gianmaria. Buongiorno dottor Paolini, complimenti. Io volevo, sono di Genova, no, originario del Basso Piemonte, la zona del Gavi per capirci. E niente, da noi si fanno dei ravioli che sono un po' una via di mezzo fra quelli piemontesi e i ravioli genovesi, buonissimi, li faceva mia nonna, li fa mia mamma e li fa anche mia moglie, fatti in casa, quindi manteniamo la tradizione. E la caratteristica è che buoni in brodo, buoni conditi col sugo di brasato, ma noi li mangiamo col vino rosso. Bene, allora guardi, io in linea, come si dice, cade a fagiolo, Antonio Santini del pescatore di Canneto sull'Oglio, a cui appunto volevo chiedere dei sorbir d'agnole. Diciamo che già questo piatto sorbir è già un mangiare, secondo me, questo così è un suono, sorbir d'agnoli. Volevo chiedere appunto a Antonio Santini perché la tradizione, Antonio, di aggiungere a questo piatto straordinario un cucchiaio di vino. Buongiorno a tutti. Beh, direi che nella tradizione mantovana, ma non solo mantovana, perché è una tradizione, che dicono fare chabrò, anche in Francia si usa, beh, è quello innanzitutto di aggiungere il vino per dare, diventa il sapore del piatto, improvvisamente diventa speziato, ma prima di mettere il vino è buona norma sentire il brodo. Il brodo, come è stato detto un po' da tutti, è una delle cose più importanti in una casa, in un ristorante. Per cui prima si assaggia il brodo e poi si aggiunge il vino e si nota che c'è un cambiamento totale del piatto. Se voi mangiate gli agnoli in brodo e poi aggiungete il vino, notate un cambiamento importante. E normalmente nella tradizione si sorbiva in piedi, si prendeva in piedi questo piatto, era buona norma, sembrava, mentre adesso le signore lo apprezzano anche più degli uomini, si doveva prendere questo piatto in piedi davanti al camino e nelle case dove non c'era il camino verso il muro, perché si aspirava questo liquido e gli agnoli, e in questo il nome sorbir. Senti, ecco, volevo chiederti questo, il vino è lambrusco? Il vino normalmente è lambrusco nelle nostre zone, sì. Quindi è un vino leggero, frizzante, che dà un particolare senso al piatto. Senti, ma tu nel tuo ristorante, che è così, diciamo, ben tenuto, con molta attenzione sui dettagli, lo fai assaggiare in piedi il sorbir d'agnoli? No, li lasciamo seduti, se lo prendono come aperitivo lo possono prendere in piedi davanti al camino, questo è possibile. Devo dire che sicuramente è sempre stato nel menù del pescatore, dai tempi della nonna, della mamma e anche adesso, anche ora che c'è Giovanni. Devo dire che gli agnoli in brodo, così si chiamano da noi questo prodotto, che da altre parti si chiama ravioli, da altre parti si chiama agnolini, direi che il brodo e gli agnoli sono il test per la valutazione di uno chef, di un cuoco, di una cuoca. È chiaro anche che ogni nonna è sicura di fare i migliori del mondo. È vero, ognuno ha i migliori agnolo, i migliori tortellini o i migliori marubini. Una cosa che ci tenevo a dire è che dobbiamo prenderci più tempo per apprezzare i gusti veri e i sapori autentici. Dobbiamo, credo, dare più tempo alla preparazione delle cose nelle case e più tempo a sentirne i sapori e a trovarne le sfumature, perché questo è fondamentale per vivere bene, ma soprattutto per capire le realtà gustative, alimentari della nostra storia, della nostra cultura gastronomica. Altrimenti, se pensiamo di risolvere l'assaggio o il mangiare un piatto in 3 minuti perché dobbiamo scappare davanti al computer a vedere cosa succede, pensando che la vita sia questa, la vita è sentire i sapori e le sfumature delle cose autentiche. Grazie Antonio Santini. Grazie. Volevo ricordare che da stamattina a Matera, questa splendida città strepitosa coi sassi, è iniziato il Matera Wine Festival. In ogni angolo storico di questa città ci saranno assaggi, ci saranno presentazioni, ci saranno degustazioni appunto dei vini della Basilicata, che sono vini veramente eccellenti, a cominciare dall'Aglianico. Quindi chi vuole visitare Matera, secondo me oggi è un'opportunità doppia: visitare questa splendida città già così premiata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ma al tempo stesso anche bere dei grandissimi vini. Sentiamo Maria Luisa da Milano. Buongiorno Maria Luisa. Sì, Paolini, io volevo spezzare una lancia a favore dei tortellini di Valeggio, che sono quest'anno strepitosi. Ho già fatto un preassaggio. Bene. Un preassaggio, e vorrei di Valeggio parlare anche delle buonissime pesche sciroppate. Bene. Aroma, sapore. Grazie Maria Luisa. Sentiamo Gianluca da Roma. Signor Paolini? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno signor Paolini, complimenti per la trasmissione. Vada. Io volevo invece dire una cosa. Secondo me il miglior connubio vino tortellini in brodo, che è un prodotto che io adoro, è con il grignolino, secondo me, secondo anche altri tecnici sommelier. Però devo dire che non fatico sempre a trovare presso le enoteche, forse perché prediligono per attività commerciali vini di maggior appeal, tipo Chianti, e trovo nelle enoteche di Roma, anche in quelle più importanti, un'assenza quasi dagli scaffali di questo vino. Al massimo ne hanno solo una casa vinicola. Non potevamo non andare nella mia terra di Romagna per parlare dei Caplet. Buongiorno Pier Giorgio Parini dell'Osteria del Povero Diavolo di Torriana. Buongiorno Pier Giorgio. Ciao Davide. Allora Pier Giorgio, ci dai il ripieno dei cappelletti? Perché qui ci sono correnti di pensiero. Ora tu mi dirai la tradizione di quell'area dove tu vivi e lavori, ma io poi ti dirò anche la mia. Prego, certo. Pier Giorgio, allora qual è il contenuto? Allora, il ripieno dei cappelletti si fa con maiale, 70% di maiale, il 20 di manzo e 10 di vitello. Le carni vengono arrostite, vengono macinate in modo grossolano, e poi viene aggiunto formaggio nostrano fresco, appena bucciato, parmigiano, buccia di limone e noce moscata. Senti Pier Giorgio, il brodo è di cappone, rigorosamente di cappone o anche un po' di gallina? Cappone e gallina benissimo, tutte e due assieme. Ecco, diciamo che i cappelletti quasi sempre vengono serviti in brodo. Io spero che ancora ci sia questa tradizione, che non vengono rovinati magari asciutti col ragù. No, assolutamente. L'unica variante che si può fare, secondo me, sui cappelletti è sicuramente quella di servirli in brodo e magari d'estate, magari con una spolverata di formaggio di fossa. Ecco, allora io do anche grazie Pier Giorgio, però rimani perché voglio dare anche la ricetta della Romagna Toscana, dove io sono nato, tra l'altro, dove non ci va carne, quindi potrebbero essere anche usati per il magro asciutti, perché di solito viene usato il raviggiolo, che è un formaggio straordinario, la ricotta e il parmigiano o il grana, quindi sono in bianco, in alcune zone della Romagna sono rigorosamente in bianco. Ma ora dalla Romagna andiamo nelle Marche, andiamo da un giornalista storico, che un giornalista che è anche storico, ed è Ugo Bellesi, al quale volevo chiedere, perché ha anche scritto un libro, si è occupato a lungo di Vinci Sgrassi, se i Vinci Sgrassi, appunto questi marchigiani di Macerata, è un piatto anche che viene servito a Natale. Buongiorno Ugo. Sì, buongiorno. Sicuramente viene preparato per Natale. E comunque il piatto della festa, quando era una grande festa, si facevano i vinci sgrassi, perché è un piatto elaborato, è un piatto grasso e sostanzioso, non è un piatto da fare velocemente, quindi è un po' impegnativo per la cuoca, e quindi si fa nelle ricorrenze particolari. Una di queste era proprio il Natale, però si cominciava con un piatto di cappelletti e poi si andava al secondo con cappone lesso con verdure cotte e poi arrivavano i vinci sgrassi, poi proseguiva con l'arrosto e questo era il pranzo di Natale. Beh, un pranzo ormai ormai passato, perché... Senti, ma tu le mangi ancora i vinci sgrassi a Natale? Ma sì, a delle volte viene sostituito con le tagliatelle, sennò diventa troppo pesante un pranzo di questo genere. Si faceva nei matrimoni, quelli di campagna, proprio con centinaia di persone, per cui la cosa era molto impegnativa. Bene, grazie a Ugo Bellesi. Andiamo a Treviso da un radioascoltatore, Giulio. Buongiorno Giulio. Buongiorno a voi. Beh, innanzitutto complimenti a questa bellissima Italia che ha mille sfaccettature e mille ricette. Io ho memoria, e si continua a casa mia, con i bigoli in salsa fatti la vigilia di Natale. Quindi è il piatto della vigilia questo? Sì, questo è il piatto della vigilia forte, è accompagnato sempre da un buon rosso. E il giorno di Natale, Giulio? Il giorno di Natale si spazia, a casa mia ci sono influenze piemontesi, venete e lombarde, per cui ognuno porta la propria specialità. Bene, grazie. Sentiamo Cristian da Verona. Buongiorno Cristian. Buongiorno Paolini. Guardi, a Verona non esiste un Natale, o comunque anche la domenica, ma in particolare Natale, senza la peara. Sì. È una salsa fatta dalle nostre nonne, adesso poche la sanno fare, mia moglie assolutamente neanche sa da dove si inizia. Io ci ho provato domenica fa, è venuta buonissima, si cuoce brodo buonissimo, si cuoce lentamente col pan grattugiato, se possibilmente di rosetta, e si cuoce ore nel coccio, cioè 3-4 ore, se si attacca un po' sotto è lo stesso, ogni tanto si mescola, e ci va aggiunto tanto pepe e il midollo, si scalda un osso e si esce. Bene, grazie per questa ricetta della peara, che però si trova ancora nei ristoranti in Verona e dintorni, quindi non se n'è andata. Bene, ora andiamo anche a Parma, perché a Parma ci sono gli annolini senza la G, questo è un fatto importante, gli annolini parmigiani. Buongiorno Corrado Cocchi. Oh, Davide. Allora Cocchi, qual è il ripieno degli anolini? Perché questo è importante, perché la forma è molto particolare, si differenzia dagli altri, ma il ripieno? Allora, il ripieno viene fatto con un 80% di formaggio parmigiano, 75-80%, il 25% di pane grattugiato raffermo, l'aggiunta di uova e poi il tutto bagnato col sugo dello stracotto. Il formaggio ovviamente deve essere di primissima qualità, non deve essere piccante, e un buon sugo di stracotto. Questo è il ripieno. E il brodo, Cocchi? Il brodo, manzo e cappone rigorosamente. Senta, sono ancora molto esigenti, io so, molti parmigiani che vengono sul contenuto, sul ripieno dell'anolino, sono molto, come posso dire, intransigenti, cioè vogliono la ricetta quella tradizionale. Sì, no... qui a Parma hanno tutta la loro ricetta, chi mette più un ingrediente, chi più un altro, ma se vengono da me sanno che io li faccio in quel modo e pertanto vengono a mangiarli perché li faccio così. soprattutto in questo periodo che ci sono delle temperature rigide, il cliente entra per mangiare i nostri anolini. Bene, non si sbagli con i cappelletti, grazie Corrado Cocchi. Sentiamo un radioascoltatore, Roberto, dalla provincia di Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide Paolini. Dimmi. Complimenti alla trasmissione e a tutta la radio. Niente, io volevo solo evidenziare che ovviamente ognuno è campanilista per la propria tradizione, no? Però io diciamo che ho origini bergamasche, i miei genitori sono bergamaschi, mi ricordo sempre i Casoncelli, i famosi Casoncelli di Paladina dell'esilio di mio papà. Bene. Pronto? Sì, sì, l'abbiamo sentito. Sta di fatto, più che altro perché quel famoso gusto amarogno degli amaretti è indimenticabile, infatti ogni anno sia io che i miei fratelli quando ceniamo da mia mamma e diciamo sempre però i Casoncelli delle zie non ci sono più. Bene. Perché... Quindi i Casoncelli di Paladina. Grazie, grazie. Grazie non so a lei, se buona giornata. Sei ancora in linea, Pier Giorgio Parini, ci sei ancora? Ci sono, dai. Ci sono, volevo chiederti questo. Oltre i cappelletti in Romagna, in brodo ovviamente, di solito vengono serviti anche dei crostini per iniziare. C'è ancora questa tradizione? Sì, c'è ancora la tradizione di servire crostini fatti con l'interiora... poi della gallina e dei tapponi che si usano per il brodo, che non si mettono dentro il brodo e vengono fatti per fare i crostini, quindi per formare sui crostini. Quindi sì, sicuramente è un piatto di recupero, chiamiamolo così, insomma i vecchi si ingegnavano a usare tutto. Certo, certo, certo, non si buttava via niente, di tutti gli animali venivano usate tutte le parti, quindi anche l'interiora si usavano per fare questi crostini. Bene, grazie a Pier Giorgio Parini dell'Osteria del Povero Diavolo e grazie a tutti perché oggi è stata così una trasmissione che ha avuto moltissime telefonate SMS da tutta Italia, chi invoca, ho visto particolarmente scatenati erano per i tortellini di Valeggio e per i tortelli cremaschi, quindi diciamo che c'è un pubblico che tifa per queste due specialità. Bene, abbiamo concluso, penso che a tutti sarà venuta molta voglia di assaggiare brodo, cappelletti, tortellini, anolini, marubini e ancora il timballo e ancora il pasticcio. Io vi saluto, a presto!